Il gastronauta di Davide Paolini. C'è chi lo chiama bollito, c'è chi lo chiama lesso, quindi nomi diversi, ma in giro per l'Italia ci sono anche modalità diverse, modalità di tagli. Ebbene, sembra che sia tornato di gran moda quello che così per comodità chiamerò d'ora in poi bollito, perché qua e là nella ristorazione in giro per l'Italia si vedono dei cartelli oggi carrello dei bolliti. Bene, è tornato di moda perché probabilmente si mangia un piatto unico e quindi si risparmia qualcosa, oppure diciamo che il bollito non è mai scomparso dalle tavole di molti ristoranti e sotto Natale così rifà capolino. Bene, questo lo andremo a vedere anche le differenze regionali. Come sempre l'Italia presenta piatti completamente diversi nel giro di pochi chilometri, e qui ci sono tradizioni importanti del bollito in Piemonte, in Veneto, in Emilia Romagna. Ebbene, le andremo a scoprire anche la differenza di tagli, perché non è solamente diciamo una modalità, ma ci sono anche tagli completamente diversi ed ingredienti completamente diversi. E numero verde per voi cari radioascoltatori, magari intervenite, voi lo chiamate bollito o lesso e quale taglio usate? Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, io inizio questo viaggio dal Piemonte, anche perché c'è un'area del Piemonte che è Carrù, nota appunto per il bue di Carrù, famosissimo, quindi anche per la sfilata che avviene ogni anno in questo paese, appunto, che è diventato un po' il regno del bollito. Iniziamo diciamo dal Piemonte e andiamo vicino a Carrù, non proprio a Carrù, ma andiamo a Farigliano e andiamo da Maurizio 40 del ristorante La Speranza. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno. Maurizio, dalle parti vostre si fa tutto l'anno il bollito o si fa solo ora? Bene o male si fa un po' tutto l'anno il bollito, chiaramente adesso è proprio il periodo più tipico, vista la fiera del bue di Carrù e la macellazione dei buoi che avviene sotto questo periodo, sotto il periodo natalizio, quindi adesso un po' tutti i ristoranti e in tutte le case si prepara il bollito. Ecco, volevo chiederti questo, cioè siamo a Carrù, quindi siamo di quello che è considerato un po' il regno. La patria del bollito. Ma dalle parti vostre si fa ancora con 9 tagli di carni e 7 addirittura salse che vengono servite? Sì. Dai 7 ai 9 tagli di carne e le classiche 7 salse da accompagnare questo magnifico bollito. Ma arrivano da tutta Italia a Carrù per mangiare questo piatto Guarda, tradizionale? Arrivano veramente dappertutto, arrivano centinaia, anzi migliaia di persone a Carrù, le invadono letteralmente per mangiare il bollito, vengono veramente a cercare questo piatto. Senti, ma se 9 tagli sono tanti e quindi diciamo i commensali quante ore rimangono a tavola? Certo, bisogna prendersela un po' con un po' di calma, perché poi va servito comunque in varie uscite, in varie portate, perché sennò si rischia di mangiarlo freddo e non sarebbe più buono. Quindi bisogna prendersela con un po' di con tempo, comunque un paio d'orette per fare il pranzo ci vogliono sempre. Senti Maurizio, ma quanto costa da te il, diciamo, uno ordina il bollito, quindi può scegliere tra i nove tagli e le 7 salse, e quanto costa questo? Allora, nel mio ristorante il bollito lo serviamo a 18 euro, quindi ancora un prezzo abbastanza, diciamo, popolare, fattibile per tutti. Chiaramente il bue è una carne un po' più costosa, quindi bisogna appunto valutare almeno una cifra del genere solo per il piatto di bolliti. Ecco, vedo già che arrivano gli SMS, là in Toscana si chiama lesso ed è molto molto più buono, scrive Luca da Pisa, e poi ancora Verona si chiama lesso con la pera. Sì, io ho detto che lo chiamavo così per comodità bollito durante tutta la trasmissione, ma l'ho premesso, lesso oppure bollito. Poi vedremo anche il lesso rifatto, perché l'Artusi su questo è un maestro su questo piatto. Bene, sentiamo Laura da Milano. Buongiorno Laura. Sì, buongiorno. Prego. Senta, io ascolto spesso la sua trasmissione. Volevo solo farle un piccolo appunto, che tra le regioni dove il bollito lo fa da padrone c'è la Lombardia. Bene, bene, io sono contento. Lei non ha citato. Ha ragione, sono contento di questa di tirata di orecchie. Sì, io probabilmente ho recitato le tre regioni principali, c'è anche la Lombardia, ma la Lombardia, diciamo che dopo il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna, viene alla Lombardia. Grazie Laura da Milano. Bene, abbiamo con noi, grazie a Maurizio 40, abbiamo con noi un macellaio appunto lombardo, lombardo di Romanengo in provincia di Cremona, Franco Cazzamali. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti. Io volevo, Franco, hai sentito prima probabilmente Maurizio 40 che parlava di ben sette o nove tagli. Ebbene, tu sei invece uno che anni fa ha lanciato un po', come posso dire, il bollito della crisi, perché tu diciamo parli di meno tagli. Di quanti, Franco, per fare un ottimo bollito? Allora, innanzitutto non bisogna dimenticarci siamo sicuramente in Italia, ma la Lombardia, come ha detto la signora, non è seconda a nessuno, ma però purtroppo siamo tutti uguali, noi comunque veniamo sempre dopo il Piemonte, da non dimenticarsi. L'altra cosa è che di tagli noi ne facciamo anche di meno, ma per un fatto molto semplice, perché bisogna vedere un po' quello che avanza. Io di solito non faccio mai mancare il bianco costato, che è la base per fare il brodo, e poi del muscolo e del cappello di prete. Io credo che se poi vogliamo fare un bollito, diciamo all'italiana, ci vogliono sicuramente sette tagli più gli amenicoli, però si possono fare i bolliti, anche addirittura ho scoperto che adesso lì sul cavallino gli fanno anche, sul parmense, mettono dentro anche il maiale, il piedino e anche la costina. Dipende come lo si vuole fare, però si possono fare i bolliti con tutte le carni. Claudio, un radioascoltatore, buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego. Allora, noi mangiamo regolarmente il bollito a casa con tagli, compreso la lingua, l'osso e vari tipi di manzo. Poi da lì facciamo l'estrifatto col pomodoro, le cipolle, la frittata di slesso, e non scordiamoci la pasta del Trentina e Lampedotto, che è un derivato importante anche sempre del bollito. Sì, certo, quindi dico anche il Lampredotto, questo non l'avevo mai sentita, però voglio ricordare, lei mi ha dato così un assist, il discorso del lesso rifatto che trova molto spazio sull'Artusi, la ricetta 355, ma il lesso rifatto ha anche una bellissima storia, perché viene chiamato a Firenze francesina e si riesce a capire, non si riesce a capire perché si chiama francesina. Bene, io invito, se c'è qualche radioascoltatore che mi racconta magari perché ci sono diverse interpretazioni, sembra che derivi, ma no, non vi voglio dire niente. Se c'è qualcuno che sa perché a Firenze il lesso rifatto si chiama francesina, prego intervenga, perché è una cosa molto ma molto divertente. Voglio tornare a Franco Cazzamali. Franco, volevo chiederti questo: tu da anni predichi una cosa importante sul bollito, e magari qualche radioascoltatore rimarrà un po' così anche stupefatto, che bisogna usare acqua minerale dove cuocere il bollito. Ci spieghi perché? Ma allora, ti ringrazio per questa domanda, perché vedo che tutti quelli che glielo do lo mettono in pratica e poi mi danno il riscontro favorevole. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice, cioè da una considerazione, che l'animale quando è in vita ha un pH di 7, quando viene macellato, quando ha finito praticamente, che arriva la temperatura a 2 gradi o a 0 gradi, il pH della carne è a 5,6, 5,7. Se noi utilizziamo un'acqua che è superiore a 7, praticamente facciamo la schiuma quando andiamo a fare il bollito e il brodo, e perciò non riusciamo mai a capire se è la carne che è stata alimentata male o se è l'acqua che non va bene. Se noi invece utilizziamo un'acqua che può essere naturale con un pH inferiore a 7 o addirittura un'acqua minerale, se il brodo fa la schiuma, perciò che si deve schiumare, allora a questo punto è la carne che è stata alimentata male. Cosa intendo? Vuol dire che sono stati utilizzati degli insilati, delle cose praticamente molto forzate. E questo secondo me è un po' diciamo la cartina di tornasole di sapere se queste carni veramente sono state alimentate bene. Bene. Parto da un presupposto molto semplice, concedimi questo termine, questi brodi addirittura li possiamo riutilizzare alla fine del pasto proprio per servirvi al posto del caffè. Bene, grazie, grazie Franco, perché ci hai dato così una lezione importante, perché capire la qualità della carne, questo oggi credo sia uno dei fatti fondamentali per poter mangiare bene. Bene, continuiamo nel nostro viaggio, ricordo sempre numero verde 800 24 00 24, ricordo la francesina, quindi chi mi sa dire perché si chiama francesina. E ora andiamo in Emilia, andiamo a Serramazzoni in provincia di Modena, andiamo dalla salumeria Regnani. Buongiorno Massimo Regnani. Buongiorno a lei e tutti ai suoi radioascoltatori. Ma io devo dire una cosa, le leggerò Regnani una cosa interessante, un sms che è arrivato e nessuno sapeva che lei era in linea con noi. Buongiorno, per il bollito uso capone copartina di spalla di manzo, per il cotechino o zampone uso Regnani, il migliore abbinamento con il purè. Vede, devo dire che così questo radioascoltatore, non sapendolo, ha tirato in ballo lei, e io lo voglio proprio chiedere. Cioè lo zampone, non si trova più lo zampone, è difficile trovarlo. Ci spiega perché? Perché è difficile da produrre Regnani o perché la gente non lo consuma più? Ma perché lo zampone stufato, crudo, quello che il consumatore finale deve cuocere da solo, è difficile da cuocere. Adesso sono un po' contorto nel mio parlare, ma per cuocere uno zampone necessitano molto tempo. Perché adesso io mangio a l'una, mia mamma per cuocermi lo zampone si alza alle 7:30 della mattina, lo metto in bagno un'oretta in acqua fredda in modo di ammorbidire la cotenna. Una volta passata quest'oretta si comincia la cottura, viene forato per far sì che la cotenna e la parte grassa del maiale, dell'insaccato esca il più possibile. Ebbene, avvolgerlo in un telo per far sì che non si rompa, e poi bisogna cuocerlo 4 ore e mezzo, deve sobbollire, cioè bollire lentamente, e poi necessita sempre di un controllo, perché quando l'acqua evapora bisogna aggiungerci un po' d'acqua. Cioè la cottura dello zampone è molto complicata, e coi tempi di adesso sono poche le persone che si dedicano a questa bellissima esperienza di cuocere lo zampone, che riempie la casa di un profumo. È vero, è vero. Regnani, sai cosa succede oggi? Che lo zampone precotto si cuoce velocemente, e purtroppo con i tempi che corrono la gente fa molto molto molto prima. La ringrazio Regnani, so che il suo zampone è straordinario. Bene, la ringrazio di questa, diciamo, indicazione che ci ha dato, e chi volesse appunto comprare uno zampone sa che cosa va incontro, uno zampone non precotto. Sentiamo Antonio da Bari, un radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Buongiorno, chiamo appunto dalla Puglia, e da noi non si chiama né bollito tantomeno lesso, però prende il nome dal contenitore che viene utilizzato per cuocere l'agnello piuttosto che il capretto, e si dice alla cutterie. Praticamente viene cotto all'interno di questo contenitore in terra cotta, ed è un piatto tipico che risale già dai tempi della transumanza, nella quale i pastori preparavano la mattina, prima di portare le pecore al pascolo, questa pignata, questo cutried appunto, con le parti meno nobili dell'agnello o della pecora o del capretto. Senta Antonio, ma è quel tegame che si chiude doppio, si mette diciamo sopra e sotto, è diviso a metà, quasi rotondo, è questo? No, è una forma allungata, sembrerebbe un'anfora con una bocca molto piccola, proprio per sfavorire l'evaporazione. Bene, perché in Sardegna diciamo che i pastori ne usano uno simile. Grazie Antonio, sentiamo Matteo da Ferrara. Buongiorno Matteo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo, non so se ne avete già parlato, comunque con Ferrara per il bollito mettiamo dei tagli anche come la lingua. Certo, se si mettono abbastanza, ma voi a Ferrara diciamo che avete anche voi una tradizione sul bollito molto particolare. Questi sono gli ammennicoli di cui è stato parlato prima. Bene, ora abbiamo un macellaio che è anche ristoratore, e questo è un fatto significativo, perché gli faremo una domanda un po' particolare. Buongiorno Sergio Motta. Buongiorno. Sergio, tu sei sia macellaio che ristoratore. Bene, tu nel tuo ristorante fai il bollito. Esatto. Allora ti chiedo, ma tu usi gli stessi tagli che dai ai consumatori quando vengono e ti chiedono un buon bollito, oppure c'hai qualche segreto nel ristorante? Ma nessun segreto. La fortuna di avere alle spalle una macelleria e la fortuna di avere a disposizione sempre il bue piemontese. Mettiamo il segreto, mette tanti pezzi grossi in modo tale che rimangano molto saporiti. Sì, no, ma volevo chiederci, cioè, la domanda era anche questa, cioè volevo capire, tu diciamo, se viene un cliente e ti chiede mi prepara un bel bollito questa sera che siamo più persone, più o meno quanto costa? Ecco, cioè diciamo per quattro persone un bollito completo. Attorno a 15 euro al chilo. 15 euro al chilo, e per quattro persone quanto ce ne vuole? Il dramma del bollito è che per riuscire a farlo come si deve bisogna mettere un pezzo di biancosta, un pezzo di musco, un pezzo di testina, il cappone che li facciamo levare in Piemonte a Moncalvo, quelli grossi, belli, saporiti. Da cui però, da questo cappone, forse il brodo viene straordinario. Molto, molto buono. Manzo e pollo è eccezionale. Poi un pezzettino di lingua ci vuole. È un attimo fare delle quantità. Tu ti rifai alla tradizione piemontese, quindi sono i famosi 7 o 9 pezzi, così. Certo, certo, certo. Rimani con noi, sentiamo Renzo da Pistoia. Buongiorno Renzo. Buongiorno, senta, per il Lesso, noi si chiama Lesso in Toscana. Sì. Mi sente? Sì, sì, no, la sento benissimo, sappiamo che si chiama Lesso. No, sì, dicevo sì. Che il Lesso, in Toscana, che il buon Lesso si chiama Lesso noi. Certo. E i pezzi, diciamo sì, per farlo sono lo spiccio di fetto, costoline, muscolo, un po' di lingua, e gli odori, diciamo sì, poi schiumato. Bene. Senza aggiungere né carne di pollo e né, diciamo, carne di maiale. Bene. Perché sennò diventa un altro. Grazie, no, grazie Renzo. Grazie. Per il fatto della francesina, forse perché veniva fatto il Lesso rifatto perché veniva fatto col sedano. No, non è così, la risposta è inesatta. Diamo la risposta alla domanda di riserva, lo spiegherò poi alla fine perché si chiama francesina se nessuno riuscirà. Voglio chiedere a Sergio Motta, visto che è ristorante e macelleria, se negli ultimi mesi, diciamo da quando è cominciato l'inverno quest'anno, c'è una grande crescita della richiesta di bollito. Sì, sì, sì, con la stagione fredda veramente una grande richiesta. Ma anche rispetto agli anni precedenti dello stesso periodo, Sergio, oppure diciamo che è normale in questo periodo? No, è normale che ci sia la salita dei tagli a lunga cottura quando arriva l'inverno. Quindi non è che quest'anno ci sia stata un po' così una rivalutazione del bollito, insomma, non c'è stata, quindi, secondo te? Ma noi, avendo sempre il bue, c'è gente che viene apposta per comprare il bue per il bollito, quindi non abbiamo degli alti e bassi, è sempre alto, sempre alta stagione per il bollito quando c'è il freddo. Bene, grazie, grazie. Sentiamo Roberto da Milano, radioascoltatore. Ciao, sì, Giorgio. Allora, io volevo parlare del bollito a Milano. A Milano il bollito si mangia d'inverno, adesso in questa stagione fredda, magari anche nelle altre. Allora, si mettono dentro i pezzi di carne, come hanno già detto, oltretutto si mette una cipolla, una carota, una patata, un pochino di sedano. Perché il brodo che si fa serve per cuocere i ravioli, come dicono a Milano, e poi fare soprattutto il risotto alla milanese, che è molto, che è bene, valido. Però ecco, lei non deve, però quello là di Carrù, andare a mangiare un bollito, solo il bollito 18 euro con la crisi che c'è, è un pochino caro, oltre beh, insomma, a quello che metto. Sette o nove pezzi con sette salse, faccia un po' i calcoli, insomma, non è che, cioè, nove pezzi sono tanti, insomma, uno mangia mattina e sera e poi magari anche il giorno dopo deve ancora digerire quello che ha mangiato la sera prima. Grazie Roberto da Milano. Bene, io devo dire che ho tantissimi sms, tutti mi parlano della Peara, tutti mi parlano degli ammenicoli e di quello che viene servito di contorno, ma c'è anche un altro, diciamo, tasto che non abbiamo toccato. Con che cosa si accompagna il bollito? Si accompagna con quali vini? Con quali vini? Vini frizzanti, vini fermi, vini piemontesi, visto che è a Carrù, oppure vino emiliano, visto che, diciamo, che c'è una grande area in Emilia, oppure in Lombardia. Quindi anche questo è un argomento molto interessante che, cari radioascoltatori, io vi lancio e vorrei che magari qualcuno mi rispondesse. Numero verde 800 24 00 24. Ma c'è già un diciamo chi mi ha risposto e mi parla di lambrusco, mi parla di dolcetto e mi parla di champagne. Bene, questi sono tre abbinamenti che potrebbero anche andare. Voglio leggere un SMS, mi dice: per gli ascoltatori vegani come me è giusto ricordare la ribollita proposta dallo chef Simone Salvini nel ricettario della Marianna da Milano, che scrive questo nel ricettario di Salvini. Ebbene, lo ricordo molto volentieri perché ho assistito a una lezione di cucina di Simone Salvini e devo dire un bravissimo chef, quindi credo che questa ribollita possa essere molto molto interessante. Bene, allora continuiamo questo viaggio. Ora andiamo in Emilia Romagna, perché siamo andati in Piemonte, siamo andati, poi andremo in Veneto e ora facciamo anche un salto in Emilia Romagna e andiamo alla clinica gastronomica Arnaldo a Rubì. Era bene, innanzitutto poi il Thomas Rossi mi spiegherà perché questo ristorante storico da sempre, credo che sia forse l'unico che da tantissimi anni ogni giorno offre il carrello dei bolliti, perché si chiama clinica. Buongiorno a Thomas Rossi. Buongiorno Ciao Pallini, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta, c'è un rimbombo, lei dovrebbe chiudere, spegnere la radio per cortesia, perché sennò sentiamo molto male. Fatto Rossi? Fatto. Allora, fatto, Rossi, mi dice perché l'avete chiamata clinica? Ma clinica viene da un aneddoto di molti anni fa, quando i medici del Policlinico di Modena venivano spesso e volentieri tutti i mezzogiorno a mangiare nel nostro ristorante e purtroppo non c'erano i telefoni, come si suol dire, i cellulari, loro davano il loro riferimento al nostro telefono fisso del ristorante e dicendo che loro erano già nella loro clinica. Da lì nasce questo bellissimo aneddoto. Bellissimo questo aneddoto. Senta, dall'aneddoto passiamo diciamo ai piatti, ai fatti. Cioè, voi avete questo carrello da sempre e le voglio chiedere di che cosa si differenzia dalla formula piemontese, soprattutto dei 9 tagli. Ma noi, come lei sa, da 76 anni facciamo il carrello dei bolliti tutti i giorni. Abbiamo solo qualche particolare differenza rispetto agli altri, perché abbiamo un inserimento di un prosciutto, che è proprio un prosciutto bollito, leggermente affumicato, che è una cosa che non tutti fanno, e poi dopo il resto si mette con gli altri tagli classici, che sono la lingua, la testina, il manzo, che lo facciamo con la guancia, il cotechino, il polpettone e lo zampone, e anche la coda, diciamo. Ecco, la coda devo dire che era una fissazione di mio nonno diceva sempre che un bollito senza coda sicuramente non vale, perché la coda gli dà questo profumo, questo sapore, e poi anche si può rosicchiare poi anche mangiandolo. Senta, volevo chiederle, Thomas, voi con che cosa lo servite preferibilmente? Se un commensale vi chiede un abbinamento, quale parla vino? Di vino o parla vino, di vino? Vino. Allora, di vino, guardi, io lo dico subito: da champagnista, io sono molto d'accordo con qualcuno che ha detto champagne. Nel senso, tengo l'Italia, quindi penso, presumo bollicine italiane sarebbe meglio. Il lambrusco la fa sempre da padrone oggi, perché con un po' della storia del low profile, la gente sta comunque pasteggiando a lambrusco, che ripeto, è un ottimo abbinamento. Io direi che questo low profile porta a valorizzare un vino che negli ultimi anni è veramente cresciuto di qualità. Oggi il lambrusco, diciamo, ha poco da invidiare a molti altri vini, quindi credo che valga la pena anche risparmiare bevendo lambrusco. Insomma, si beve sicuramente bene. Sentiamo Egidio da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Egidio. Buongiorno. Senta, sì, estremamente in questa panoramica, veramente, per chi è un appassionato di cucina, di svela orizzonti nuovi. Volevo dirle che a Roma, da dove chiamo, non c'è una vera tradizione del bollito, però il bollito avanzato, quello che si mangia a posteriori, viene ripassato in padella. Certo. E si chiama bollito alla picchia po. Bene, è l'equivalente della francesina. Anche qui siamo al picchiapò. Se qualcuno ci spiega cosa vuol dire picchiapò, beh, è molto interessante. Grazie a Egidio. Ora andiamo in Veneto. Andiamo in Veneto perché c'è una grande tradizione sicuramente anche in Veneto, molto particolare, devo dire, anche per una salsa d'accompagnamento notissima. E andiamo in una macelleria ristorante, quelli che io chiamo dietro il banco. Quindi qui è un po' come Motta. Sì, c'è la macelleria, c'è il ristorante. Buongiorno Gian Pietro Damini di Arzignano. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Gian Pietro, allora, con che cosa accompagniamo il bollito in Veneto? In Veneto lo... Da noi, che siamo di origine veronese, con la peala e poi comunque, avendo un po' clienti, con le varie salse, il crème, la salsa verde e le mostarde. Ecco, Gian Pietro, voi avete dei tagli particolari, c'è una, diciamo, una proposta originale da parte vostra sui tagli del bollito? Beh, quello che serviamo al ristorante, anche quello che si può trovare in macellerie, che uno può portare a casa, da sporto, ci sono i 6-7 tagli classici che si usano, il muscolo, quelli che hanno nominato, certo, il cotechino, la lingua, la gallina, il cappone, la testina, la coda, però non sembra perché su una bestia ce n'è una, la punta di petto. Ecco, e Gian Pietro, voi avete anche vino, cioè se avete anche una bellissima enoteca. Tu cosa proponi, diciamo, al commensale che ti chiede un accostamento particolare col bollito? Allora, o una bollicina italiana di qualsiasi zona, o un bel rosso delle nostre zone, o di Colliugani, o della Valpolicella. Poi volevo legarmi un attimo al discorso che diceva Franco prima. Giustamente, quello che vedo io anche al ristorante, nella qualità del bollito, non usando spezie, quindi solo sedano, carota e cipolla, il profumo quando si apre la cloche, che la gente rimane, e poi l'unione che fa il bollito, l'unione che fa armonia, familiarità, come si usava una volta. Quindi e quello, secondo me, è un piatto conviviale. Hai ragione, perché il bollito da soli non si può mangiare, anche perché anche a casa fare un bollito single sarebbe veramente un po' triste, così pure al ristorante. Quindi è veramente un piatto che porta alla convivialità, cioè tutti magari con la forchetta pronti a prendere il taglio del diciamo che viene servito in mezzo. Rimani con noi, Gian Pietro. Voglio chiamare ora Anna dalla provincia di Lecco. Buongiorno, Anna. Sì, però sono veneziana. E allora io ci terrei a dire la mia ricetta, che no, è per le mamme, no, che è per tutte le casalinghe. Ecco, ci dica una ricetta molto. Permettersi... Ci dica cosa cambia dagli altri, perché sennò abbiamo tutte ricette, insomma, ormai le abbiamo dette abbastanza lungo. Ci dica se lei mette qualcosa di diverso nel bollito. A quel tavolo la pelle, poi muscoletto di mangio, beh, però non so come si chiama in Italia. Ecco, grazie, perché come le ho detto, ormai troppe ricette, troppi tagli, quindi signora, se c'è qualcosa di diverso, bene, se no diciamo ripetiamo sempre le stesse cose. Sento Marina da Messina, buongiorno Marina. Buongiorno, allora come si può immaginare io non ho grandi tradizioni riguardo al bollito, la zona insomma non è quella giusta. Io avevo invece una curiosità rispetto alle 7 stesse di cui ho sentito parlare. Sì. Cioè, di che cosa si tratta? Beh, si tratta di salse al pomodoro, salse al miele, salse alle erbe. Insomma, sono sette, diciamo, sette stelle vengono chiamate. Ognuna di queste è completamente diversa, appunto con gusti molto diversi, come le dicevo. C'è appunto quella, diciamo, tipica col pomodoro, c'è un'altra con l'acciuga e il cappero, c'è un'altra ancora alle erbe, c'è un'altra ancora in cui interviene il miele. Poi me ne ricordo 4 o 5, diciamo che tutte e sette non me le ricordo, ma magari ci sarà qualcuno che sicuramente ora interviene. E diciamo che sono molto interessanti, però variano da zona a zona, e poi parleremo della pera, perché abbiamo un ristoratore, ce la faremo raccontare, Marina. Grazie comunque, magari se me ne mancano due ora facciamo intervenire qualcuno. Io voglio tornare un secondo da Thomas Rossi, volevo chiedere, lo chiedo anche a Damini, ma in questi ultimi tempi, vedendo tutti questi cartelli sulla ristorazione dove c'è scritto oggi il carrello dei bolliti, è cresciuta, diciamo, la domanda di bollito, Thomas, oppure voi siete standard da anni, visto che il vostro ristorante ha questa specialità? Guarda Davide, noi, come tu ben sai, il carrello tutte le mattine alle ore 8 precise la gallina scende nel brodo, scende nell'acqua, e noi lo facciamo tutte le mattine, quotidianamente, sempre, tutti i giorni dell'anno. Ecco, scende quindi nell'acqua, ma scende acqua fredda o acqua calda? Questo è un altro punto importante. Ci sono varie scuole di pensiero, sì. Noi ormai siamo tarati per fare le stesse cose da 76 anni, ormai penso che l'errore faccia fatica a scappare, nel senso, perché noi facciamo lo stesso piatto, gli stessi menù rigorosamente da 76 anni, quindi noi lo mettiamo con un'acqua non bollente, però non con acqua fredda, diciamo. Ho capito, quindi avete trovato una via di mezzo. Gian Pietro, volevo chiedere a te la stessa cosa, è cresciuta la domanda visto la crisi, oppure il bollito costa talmente caro che anche la crisi uccide anche il bollito? No, assolutamente, anzi, la crisi aiuta a cambiare modi di lavorare. Noi abbiamo fatto sto bollito monoporzione o due porzioni sottovuoto da sporto, E la cosa più bella è che tanti ragazzi giovani si trovano universitari qui per fare la cena del bollito. Acqua che bolle, si mette dentro la busta, 20 minuti, e veramente è una cosa che si vende tantissimo, perché io capisco nel momento che stiamo vivendo che uno non può mettersi lì ogni giorno o alla domenica 3-4 ore a fare il bollito. Questa ricetta qua sta avendo veramente... Gianpietro, quanto costa? 10 euro 12, si mangia in due. Benissimo, grazie, grazie a Gianpietro. Sentiamo al volo Anna da Monza. Buongiorno Anna. Buongiorno Davide Paolini. Sì, prego. Buongiorno e complimenti come al solito per la bellissima trasmissione. Veloce. Segnalavo semplicemente un ristorante di Lecco, ristorante Orestino, che serve su un carrello dove si esibisce veramente chi serve il bollito, del bollito eccezionale. Bene. Comprese le salsine preparate al momento. Grazie Anna. Bene, allora io voglio raccontare, perché si chiama Francesina, non lo racconto, lo traggo da un libro di un bravissimo, bravissimo scrittore che si chiamava Santini, e devo dire che su questione territoriale è veramente stato uno dei più bravi a raccogliere informazioni, a scrivere di ricette. Ebbene, lui scrive che Francesina deriva dai livornesi, che con il loro sarcasmo scrive chiamavano francesine il lesso rifatto per i pomodori che rovesciano, che vengono rovesciati copiosi nel tegame, rossi come i pompons dei marinai francesi che i livornesi riempivano di cazzotti appena quelli provavano a mettere le mani addosso alla loro figlia e alla loro moglie e peggio alle loro ganze. Bene, questo scritto di Santini, non è arrivata nessuna risposta. Bene, ho letto la francesina, che è sicuramente un piatto che io consiglio, cari gastronauti, perché è un piatto di quello che rimane, e facendo la francesina forse si mangia ancora meglio del bollito. Io lo adoro e molte volte il bollito magari lo lascio perché mi piace moltissimo questa che viene chiamata francesina. Ma ora continuiamo, andiamo in un locale storico, anche questo è il bollito tutto l'anno. Andiamo da Armando Bordin della locanda di Castelvecchio di Verona. Buongiorno Armando. Buongiorno Davide, come va? Bene, grazie. Allora Armando, a lei voglio chiedere questo, ma ci spiega cos'è questa peara che avrò avuto 20, io lo so cos'è, ma insomma dico avrò avuto 20 sms che tutti chiedono di questa peara. La peara è una salsa della quale i veronesi non possono vivere senza. Ah, ecco. È una salsa antichissima, risale al 500, è una peara fatta molto semplice, una salsa povera. La peara è fatta con quattro cose: pane, pepe, brodo e midollo. Il midollo veniva usato una volta perché non c'era il burro era una cosa pregiata, quindi era un sostitutivo, visto che nel bollito si metteva l'osso e non si buttava via nulla, e quindi usavano anche il midollo per ammorbidire questa salsa fatta con il pane vecchio grattugiato, il pepe e il brodo del bollito. Bene Armando, sentiamo Claudio dalla provincia di Ravenna. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego. Sì, io volevo fare un intervento sugli abbonamenti, e sono d'accordo sullo champagne, ma aggiungerei anche un'ottima birra trappista, magari una double, e per rimanere in Italia una Cascinazza Amber. Bene, la Cascinazza Amber è dei frati di Binasco, e quindi bravissimi, bravissimi frati che producono questa birra, e ora diciamo che hanno anche allargato la loro produzione a più birre. Volevo ricordare, Claudio, lei mi tira la volata, che diciamo esistono le birre di Natale che sono veramente molto molto particolari, e che di cui ne parleremo proprio il giorno di Natale, quindi faremo una trasmissione in cui parleremo anche di birre di Natale, perché vengono abbinate a moltissimi piatti. Poi spiegheremo anche perché si chiamano birre di Natale. Ora rimaniamo in Veneto, andiamo a Sovizio, in provincia di Vicenza, in macelleria Nogara, da Tiziana Nogara. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Davide. Senti, abbiamo parlato di cotechino, no? Abbiamo parlato di cotechino. Sì. Io anni fa sono rimasto molto impressionato dal cotechino che produce la tua macelleria, perché è molto alleggerito dal broccolo fiolaro. Bene, credo che questa sia stata una grande trovata. È vero, sgrassa questo broccolo messo all'interno del cotechino? Certo, intanto bisogna precisare che c'è differenza tra musetto e cotechino. Il musetto che noi produciamo è fatto con gran parte di carne della testa del maiale, quindi tutta la testa del maiale, la parte lattiginosa, la carne, e carne di spalla di maiale, quindi poca cotenna di schiena, diciamo. Il broccolo fiolaro, che è stato inserito da noi perché riscoperto come vegetale qui nella provincia di Vicenza, è un vegetale molto saporito che si attacca, diciamo, un termine così, molto bene al connettivo del nostro musetto e quindi sprigiona questo sapore incredibile e lo arricchisce. Bene, abbiamo sentito questo. Ecco, volevo chiedere, il broccolo, qual è il periodo migliore per mangiare il broccolo fiolaro? Allora, il periodo migliore per il broccolo fiolaro è adesso. Praticamente il broccolo deve prendere la brina per essere buono. Quindi la coltivazione che inizia, la prima piantatura inizia in agosto, si comincia a raccogliere in novembre. Però il migliore è adesso in dicembre, perché ha preso il ghiaccio della stagione, diciamo, fino a febbraio. Ecco. Bene, grazie Tiziana, grazie, per così ci hai illuminato su questo cotechino molto particolare. Bene, e non abbiamo parlato della bondiola, perché anche la bondiola è un altro prodotto sicuramente da bollito, anche questo si mangia in Veneto, quindi in alcune province del Veneto. Devo dire che mi arrivano continuamente SMS di bolliti che riguardano la politica. Cari radioascoltatori, io questi non li posso leggere. Comunque devo dire che mi sembra che se dovessi fare un calcolo agli SMS che mi sono arrivati, direi che quelli, i bolliti riferiti ai politici, sono veramente in grande maggioranza. Ma sentiamo Pietro da Roma. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Ma come, non avete nominato i nervetti, il ginocchio, è la cosa più buona. Beh, diciamo che il ginocchio più che altro viene utilizzato per chi fa il brodo e vuole ottenere un grande brodo, perché ci sono differenze sostanziali, filosofiche, tra chi fa un bollito per mangiare la carne e quindi ottenere il massimo dalle carni che mangia, chi invece fa un grande, diciamo, un lesso, un bollito, semplicemente per ottenere un grande brodo. Quindi sono due scuole di pensiero che riguardano anche l'acqua ghiaccia iniziale o l'acqua calda. Laura da Torino, buongiorno, un'altra radioascoltatrice. Mi ha proprio anticipato, stavo proprio per spiegare la differenza tra bollito e lesso. Il lesso è per il brodo e si mette in acqua fredda la carne adatta per brodo, e il bollito in acqua bollente per privilegiare il gusto della carne che resta ben compatta dentro. Grazie. Grazie a lei. Paolo da Roma, un altro radioascoltatore. Prego Paolo. Buongiorno. Senta, volevo ricordarle la pezzatella qui della parte del Lazio, insomma, che sarebbe la pecora praticamente. Sì, mi sono arrivati anche altre diciamo SMS proprio dalla Sardegna. Mi ricordano appunto il bollito di pecora. Sì, non sapevo che fosse anche, diciamo, una tradizione romana. Romana o dei dintorni di Roma, Paolo? Ma diciamo più che altro dalle nostre zone, zona di Bracciano, ecco, del lago di Bracciano, si usava questa grande festa che praticamente la mattina si macellava, cioè si puliva bene la pecora dai tagli di grasso, eccetera, si faceva questo brodo. E le cozzarelle poi venivano messe alla brace. Bene. E le rimanenze poi ci si faceva il sugo per condire il giorno dopo i famosi gnocchi, insomma. Ecco. Grazie, grazie. Visto che prima la nostra diciamo radioascoltatrice di Messina, volevo ricordare che si chiamano bagnetti, appunto, quelli che vengono usati, le sette salse in Piemonte. E vorrei anche ricordare, sempre per rimanere in Sicilia, che abbiamo, diciamo, a Palermo un posto molto caratteristico che è Dottor Ubrodo, così si chiama, dove si mangia brodo da una vita, ed è un locale molto ma molto caratteristico. Beh, abbiamo un'ultima radioascoltatore. Daniele, due secondi volevo dire. Daniele, prego. No, io dico solo una cosa fondamentale per abbreviare alcuni tempi di cottura per alcune parti del bollito, che è la pentola a pressione. Per carità, per carità, è tutta un'altra cosa, i sapori che vengono fuori, i profumi sono altri. Bene, chi lo vuol fare lo faccia, ma io credo che il bollito, come dicevamo prima, il bello è proprio della convivialità, ma anche quando si scoperchia così la pentola si sentono questi profumi e questi odori straordinari. Abbiamo finito questo viaggio nel bollito, e allora io vi do appuntamento domani alle 11.30 con il riposo del guerriero, e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Ringrazio ringrazio Filippo Aurigi in regia e Nadia Zambitti per la collaborazione. Buon weekend a tutti e buon bollito, non bolliti, non buoni bolliti, ma buon bollito a tutti, magari con un bicchiere di vino straordinario, che con questo freddo così si può combattere al meglio. Un caro saluto dal vostro gastronauta.